tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito del circolo giordanobrunomi.wordpress.com. Iniziamo dalle notizie anticlericali, Corriere della Sera del 20 febbraio. Si parla di Mazzini, tra poco c'è il 150esimo della morte, il 10 marzo. E si parla appunto della sua concezione un po' confusa di Dio e della trascendenza, con tanto di credenza nella reincarnazione. E diciamo, il testo è un po' ampio ma ambiguo, in quanto non parla dell'anticlericalismo di Mazzini, invece lui era un grande anticlericale. E dal Fatto Quotidiano del 12 febbraio, Daniele Luttazzi: è impossibile trovare una ragazza vergine nello Stato Pontificio. Ottimo testo di satira anticlericale. Eutanasia, referendum inammissibile, dal Manifesto del 16 febbraio. La Corte trova il pelo nell'uovo. La Consulta boccia il quesito sottoscritto da ben 1,2 milioni di italiani, sposando le tesi dei cattolici pro-life. La prealpina del Varesotto, un testo satirico, uno sciopero in paradiso. Sciopero di chi? Degli angioletti. Un testo ironico, satirico. Leggiamo brevi passi. C'è da dire che i diavoletti giù all'inferno ridevano, guardavano in su e dicevano: adesso viene bella, il Signore è nei pasticci per questo sciopero degli angioletti. Una satira così moderata. In mezzo a tanto fracasso il Signore grida, cosa che non aveva mai fatto: non ho finito. E tutti han taciuto, però gli angioletti contenti ridevano. Sempre nel campo laicista, 2022 per i funerali civili, dal Giornalino del Municipio 8 di Milano. Su iniziativa dell'assessora è stata approvata una delibera per mettere a disposizione dei milanesi spazi gratuiti da destinare ai funerali civili. Molto bene. Dal Manifesto del 20 febbraio. In Ecuador la svolta non è storica, il diritto all'aborto è a tempo. All'Assemblea legislativa finalmente legalizza l'interruzione di gravidanza in caso di stupro, ma solo entro le 12 settimane. Passiamo ora ai preti pedofili. Il Fatto Quotidiano del 20 febbraio dà grande spazio, una doppia pagina. L'obiettivo è rendere giustizia agli abusati, ma la giustizia non è giustizialismo. Basta con le autodifese e gli insabbiamenti, serve un'indagine vera. E il Monsignor Molestatore va al convegno in Vaticano, presenze inopportune. Dichiarazione di Francesco Zanardi, che fu stuprato da un prete. L'Italia è un'anomalia nel panorama mondiale, in Francia sono venute fuori 216.000 vittime. Coinvolti 3.000 sacerdoti. Park Lowen, un altro stuprato dai preti, serve un'inchiesta imparziale, come chiesto all'ONU 3 anni fa. È una questione di giustizia, responsabilità, verità e indipendenza. È una vergogna che solo la religione cattolica ha, le altre religioni non hanno questi casini. Per i sopravvissuti, per la società e per la Chiesa, la maggior parte della quale svolge un lavoro importante, rispettato, eccetera, eccetera. È l'ora di ripulire. Ecco, gli angolini. Ho visitato la Villa Medici di Roma, in cui c'era la cosiddetta alcova del cardinale, altro che voto di castità. C'era una scala nel suo appartamento che collegava direttamente all'esterno, dove faceva venire su le signorine. Febbraio 2022. Poi la guida ci ha detto che un nobile ordinò roghi di quadri che secondo lui erano indecenti nel secolo XVII, quindi si vedono ancora nel soffitto questi spazi vuoti di questi quadri incastrati nei soffitti di legno che erano indecenti e nel campo della Controriforma furono eliminati. Da www.marca.com, 8 febbraio, scandalo negli Stati Uniti, a Las Vegas. Una suora condannata per aver rubato ben 835 mila dollari che se giocava a Las Vegas. Il settimanale anticlericale Cronaca Vera dà enorme spazio a Don Euro. Per Don Euro è finita la pacchia. Già prima dello scandalo, il sacerdote era soprannominato in questo modo per le richieste continue di denaro ai parrocchiani, all'epoca ignari dei suoi stravizi, e dei suoi sia economici che sessuali. Quindi leggere sempre Cronaca Vera, che quasi sempre, insomma, ogni settimana ci informa sui crimini clericali. Pedofilia dal Fatto Quotidiano. Pedofilia, perché vescovi italiani non vogliono indagare? L'incubo tedesco e il tabù del celibato. Dal Fatto Quotidiano del 21 febbraio. Dalla newsletter Rete l'Abuso, Bergamo, abusi su un giovane della comunità. Padre Zanotti, un francescano, rinviato a giudizio 20 febbraio. Intervista del Papa a Fazio su Rai 3. E il settimanale Nuovo del 23 febbraio scrive: perché però Fazio non gli ha fatto una domanda sugli abusi perpetrati sui bambini da certi preti? E passiamo a un'altra bella foto apparsa su un quotidiano, con foto di sullo sfondo del cupolone. L'associazione dei preti pedofili stanno manifestando con scritti "Chiese senza abusi", verità, e c'è anche un nostro adesivo ingrandito, senza religione a scuola, no grazie, ma con solo il triangolo col prete che insegue i bambini. Altri misfatti, ne parliamo dalla Repubblica Milano del 16 febbraio, di Tangentopoli, chiese Tangentopoli. E diciamo che l'articolo fa emergere le responsabilità della Democrazia Cristiana e quindi queste figure di sacrestia che rubavano a più non posso. Dal Corriere della Sera del 16 febbraio, caso Becciu, perquisizione della finanza in Sardegna alla ricerca del tesoro dei soldi rubati al Vaticano dal Cardinal Becciu. Credit Suisse dal Fatto Quotidiano del 22 febbraio. I segreti di Zurigo, coinvolto il Vaticano, vedi? E l'Andrangheta, quindi chiesa e criminalità, no? Sempre a braccetto. Dalla stampa del 21 febbraio online, anche il Vaticano tra i clienti speciali con narcotrafficanti e truffatori e dittatori. Il conto della Segreteria di Stato e il ruolo dell'istituto nello scandalo del Palazzo di Londra. L'obolo di San Pietro, le donazioni dei fedeli di tutto il mondo alla Santa Sede, accanto ai soldi di dittatori, narcotrafficanti, evasori fiscali, eccetera. E quindi sempre il caso Credit Suisse, che lo scandalo ha avuto risonanza in tutto il mondo. Dal Giorno del 15 febbraio 2022, ex seminarista abusa di una quindicenne, confessa e patteggia 2 anni violenze all'oratorio. Occhio agli oratori, sono sempre luoghi molto pericolosi. Dal Giorno Quotidiano Nazionale del 20 febbraio 2022, campane della discordia. Gli eurodeputati sloveni si rivolgono a Bruxelles, Trieste, troppo rumore. Contro le campane, spacca timpani. Abbiamo poi il settimanale anticlericale Left del 18 febbraio, contro la Chiesa del Silenzio. Nasce l'archivio online di Left per far luce sui crimini pedofili in Italia. Documentiamo un sistema fondato sull'omertà. Più di 300 sacerdoti coinvolti in 20 anni, casi insabbiati e vescovi che non denunciano. Insomma, buona parte del numero di questa settimana è dedicato a questo scandalo dei preti pedofili. E quindi ne consiglio senz'altro la lettura. Ci sono anche belle fotocopie di documenti, vignette satiriche, eccetera. Veniamo all'elenco dei giustiziati a Milano e passiamo quindi ai misfatti storici, no? 9 maggio 1620. Giustizia fatta in Piazza Vetra. Fu bruciato certo Giacomo Guglielmetto per stregone. 8 giugno 1620. furono sospesi due impiccati in Piazza Vetra, che erano frati di Sant'Agostino, per aver ammazzato il loro superiore. Quindi ne facevano di tutti i colori, no? Omicidio fra frati. E la solita eterna battaglia fra frati osservanti e quelli gaudenti. 7 luglio 1621, abbruciata viva una Paola Polotta Visentina menata dalla Valtellina, e abbruciata viva, proprio appunto per strega. Scuola calcio cacciata, torna all'oratorio, il quartiere si ribella. Dalla Repubblica di Roma, 18 febbraio 2022, pagina 19. Quindi i crimini della Chiesa contro lo sport. Insomma, vogliono trasformare questo campo di calcetto e cacciare la scuola calcio, i genitori. Papa Francesco ci aiuti, i ragazzi devono essere tolti dalla strada con lo sport. Disgrazie clericali, ex prete si suicida nel carcere a Cleveland negli Stati Uniti. Don Robert McMillan, un ex prete che era nella prigione federale di Allenwood, si è impiccato. Apparente suicidio, titolo. Sempre suicidi, abbiamo il 24 gennaio 2022 da capitalfm.co.ke. Praticamente un prete cattolico commette suicidio a Makueni, quindi siamo in Kenya. Anche qui un prete si è suicidato. Il dramma dei preti suicidi. Altri disgrazie clericali: prete sbaglia battesimi tutti da rifare, su Metro del 17 febbraio. Prete ha sbagliato la formula e ora migliaia di fedeli sono da ribattezzare. Scherzo da prete. Su venerdì di Repubblica del 18 febbraio, in Germania casse piene ma chiese vuote, è un testo diciamo di cronaca con riferimenti satirici. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata del notiziario anticlericale.